Eccoci con Anna Ceravolo per parlare dello spettacolo Terra al Teatro di Documenti dal 12 fino al 23 di dicembre, quindi a partire da oggi. Anna, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Ti volevo correggere su una cosa: fino al 19 dicembre, non fino al 23. Ah, ok, ho segnato proprio male. Sì. Ok, dal 12. Sì. Va bene. Ok, allora sì. È uno spettacolo di lunga data. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, dunque, questo spettacolo è nato, diciamo, era un'altra cosa in realtà, 20 anni fa, quando Damiani aveva terminato di costruire il Teatro dei Documenti, perché non è nato tutto insieme, diciamo, questo spazio. Quando l'ha completato, cercava un testo che fosse scritto appositamente per la specificità spaziale, perché, appunto, per chi non lo conoscesse, è un teatro molto particolare, ha varie sale che sono collegate tra loro, scale, passaggi, è un po' un labirinto, insomma. E la sua idea di teatro, di spazio tutto teatro, non senza separazioni, diciamo, tra camerini e sala e foyer, ma uno spazio completo, richiedeva una drammaturgia nuova. Quindi era stato emanato un bando all'epoca e il testo che avevo scritto io era stato scelto e lui l'aveva messo in scena, curando lui la regia, scene e costumi. Tra l'altro c'era una regia super blasonata, c'era Ronconi, Lavia, Monica Guerritore, insomma, che facevano parte di questa regia, poi insomma Sibille Usamer, insomma una giuria molto importante. È stato scelto questo lavoro e è andato in scena. Quest'anno, che ricorrono appunto i 10 anni dalla scomparsa di Damiani, noi abbiamo voluto riproporre questo lavoro, che di cui curo io la regia, e che però è stato in buona parte riscritto e risistemato, e anche la regia è stata completamente rivista rispetto a quella di Damiani. Sì. È un lavoro che io paragono un po' a uno Spoon River, nel senso che ci sono dei personaggi che sono personaggi limite, ma penso anche molto veri, molto anche vicini a noi, che hanno ognuno una loro sofferenza, una loro visione anche dell'esistenza, e il pubblico viene guidato da un personaggio che forse è un diavolo, forse è un dio, forse è un personaggio che comunque porta il pubblico in queste stazioni, ma la sua posizione è una posizione molto disincantata, un po' fatalista. Il suo ruolo è quello di osservare, di mostrare, di indicare chi sono questi soggetti, ma non può nulla per modificare le loro storie. E ci ricorda un po' che in sostanza il libero arbitrio è nelle nostre mani, non c'è, secondo me, no? Una provvidenza. Una provvidenza, ognuno deve appunto creare il proprio destino. Però devo dire che ci sono anche parecchi toni grotteschi, comici, cioè non si pensi che sia uno spettacolo, come dire, tragico, tutt'altro. È uno spettacolo, io penso, anche divertente. Sì, sì. Senti, quanti attori e attrici in scena? Allora, ci sono 6 attori che il pubblico vede, poi c'è un altro attore che invece è presente in voce, nel senso che è presente ma non appare fisicamente, ma fa tutta una serie di voci fuori, e poi ci sono in realtà altre tre persone che dietro le quinte, che poi dietro le quinte è una parola che non ha molto senso nel teatro di documenti, ma sì, non celati agli occhi dello spettatore, fanno di tutto, perché gli attori in realtà rivestono vari ruoli, si spostano da una parte all'altra con il pubblico, e quindi nel più completo buio e silenzio devono cambiare, spostare oggetti, spostare scale, spostare, aiutare le persone, insomma c'è un mondo davanti e un mondo dietro, e quindi in sostanza ci sono 10 persone che operano in questo lavoro, quindi sì, è un lavoro di gruppo molto, insomma, piuttosto importante per quanto riguarda la forza umana che, sì, che abbiamo messo in campo. Sì, sì. Senti, ci lasci a questo punto tutti i riferimenti per vedere online qualcosa dello spettacolo, sì, insomma, e anche la programmazione? Sì, vabbè, il nostro sito www.teatrodidocumenti.it. Perfetto. Noi siamo in scena, tra l'altro, il mercoledì e il sabato anche alle 18. Per cui chi magari queste giornate preferisce non andare troppo tardi a teatro può avere questa opzione, e anche la domenica, ma soltanto una replica alle 18. Perfetto. Anna, io ti dico un in bocca al lupo, un abbraccio, grazie. E a presto. Grazie a te, grazie a tutti a chi ci ha ascoltato. A presto. A presto, ciao Anna. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.